E qui siamo sempre sotto costa e sentiamo dei fischi di tursiopi, che sono i classici delfini che vediamo nei delfinari. Sono tursiopi che vivono soprattutto sotto costa e navigano, girano, percorrono le coste in cerca di cibo, si nutrono soprattutto di pesci e fanno questi fischi per comunicare, ma sentiamo anche degli schiocchi che sono gli impulsi di ecolocalizzazione che usano per sentire dove ci sono le prede. Fanno queste due grandi categorie di suoni, fischi, talvolta sono sibili, molto modulati, talvolta sono difficili da sentire, e click per ecolocalizzare, esattamente come fanno i pipistrelli. Allora i delfini fischiano, come avete sentito dal nostro bioacustico Gianni Pavan, era la soluzione del quiz questi, i delfini fischiano.